Storiacce di Raffaella Calandra. In uno dei mercantili che abbiamo qui ad Augusta, addirittura in un lato di accesso c'è scritto checkpoint, proprio il check-in dell'accesso, dove stava il soggetto di riferimento dell'organizzazione, che aveva un libro dove lui spuntava l'avvenuto pagamento per poter accedere a bordo della nave. Quindi c'è stato un salto di qualità. Ora le barche dei migranti hanno anche l'angolo del check-in, perché di un solo rischio i trafficanti di uomini davvero si preoccupano: che non parta nessuno che non abbia già pagato. È questo uno dei segnali dei vari salti di qualità nel business dei viaggi. Sempre più vario, davanti alla domanda sempre maggiore di chi vuole partire. E allora ogni banda ha una sua specializzazione, ogni porto il suo tipo di imbarcazione e ogni trafficante i suoi prezzi. E se sulle coste siciliane vengono catturati gli ultimi anelli delle organizzazioni, sempre più spesso è a Milano che si trova la regia e la cassa di molte reti internazionali. E da qui allora, dal porto di Augusta, uno di quelli dove le barche sequestrate formano alte colline, parte questa puntata di Storiacce nella rete dei trafficanti. A 2 anni esatti dal naufragio di Lampedusa del 3 ottobre, che ha cambiato tutto nelle acque del Mediterraneo. Ma secondo voi che bisognerebbe fare? Scriveteci su Facebook, sulla pagina di Storiacce, o su Twitter, l'account è Raff Calandra. Lo sbarco sta ora, per questo momento, appena trainata la nave che ci ha portato un 687 clandestini di 6 recuperi, stiamo lavorando. Augusta, Porto Empedocle, Pozzallo, quasi ogni giorno in questi porti siciliani diventate trincee continuano ad attraccare navi piene di uomini, soccorsi in mezzo al mare. Anche in quest'estate, con l'attenzione mondiale tutta concentrata invece sulla rotta balcanica e sui nuovi muri d'Europa. Su questi porti si sono formati i nostri cacciatori di scafisti, come il commissario Carlo Parini e Azzuzzo Mudì, ufficialmente interprete per la procura di Siracusa, di fatto investigatore sul campo, il primo che dopo i primissimi soccorsi inizia la caccia agli scafisti, a cominciare dagli accenti e dai pacchetti di Marlboro. Quando noi saliamo sulla nave, te lo dividiamo a razza, tolgo sempre e le famiglie, perché è impossibile uno scafista con la moglie e i figli, impossibile. Qualcuno è stato trattato male dagli scafisti, è disponibile a parlare, se no vedo se ha paura, se vedo se è vestito bene. Gli scafisti dicevano di essere dei profughi, che cosa vi raccontavano? Ma quelle sempre, l'ultima si sono dati di nazionalità siriana e loro neanche siriani. Prima cosa, io comincio a dialogare con loro, già individuo che il suo dialetto, il siriano non è come l'egiziano, l'egiziano non è come il marocchino, il marocchino non è come il tunisino e via di altro, vedo già mi sta parlando come una lingua e mi sta dando una nazionalità diversa. Il profugo non ha mai il Marlboro, perché lo tolgono sempre gli scafisti prima da salire e a bordo. Arrivato molti anni fa in Italia, a Torino, città scelta in nome della sua fede calcistica, è diventato il più prezioso collaboratore del gruppo di contrasto all'immigrazione clandestina creato a Siracusa. Lui è il commissario, un gigante buono, due perfetti personaggi di un giallo, tanto da diventare effettivamente protagonisti di un libro, Mare Monstrum, di Cristina Giudici, edito da UTET. Nessuno come loro conosce le storie di chi parte e soprattutto di chi li fa partire, siano eritrei come quelli che avevano il quartier generale nel cuore di Milano dietro il cimitero monumentale, o come Mahmoud Said, 29 anni, appena arrestato in un centro per rifugiati sempre sotto al Duomo in zona Greco, quale membro di un'organizzazione responsabile di 2 naufragi nel 2014, o siano ancora siriani o soprattutto egiziani. I più spietati, ma pure i più organizzati, quelli che per primi si sono aggiornati con i più moderni metodi di pagamento, sempre meno contanti, sempre più trasferimenti attraverso Western Union e MoneyGram o ricariche PostePay. E egiziani erano quelli che avevano preparato il viaggio della famiglia di Ragad Hassoun, la ragazzina siriana morta durante la traversata del canale di Sicilia dopo che gli scafisti avevano gettato in acqua la sua insulina. Ben altre erano state le rassicurazioni che il padre aveva ricevuto. Molto diversa era la barca che gli era stata mostrata, con un book fotografico, come ha raccontato lui stesso a Carlo Parini, commissario di Siracusa. A lui avevano garantito un viaggio confortevole, anche con assistenza medica. Quando lui è arrivato sul posto ha notato un peschereccio obsoleto, avendosi ribellato a questo modo di fare, è stato con violenza e minaccia anche costretto a salire a bordo, e nella concitazione i trafficanti hanno buttato loro la maggior parte delle valigie, tra questi c'era anche quella contenente le medicine per la bambina. Che tipo di organizzazione c'era dietro quel viaggio? Una solida organizzazione di trafficanti con molta ramificazione sul territorio egiziano. Mentre a lui avevano fatto vedere un book fotografico di yacht, di navi di un certo livello, quando lui giustamente è arrivato sul posto e ha iniziato a ribellarsi, perché l'elevata somma che lui aveva pagato, circa 20.000 euro, perché la famiglia è numerosa, sono iniziate le diatribe, le discussioni che sono degenerate, e quindi sono cadute in mare le cose necessarie per la sopravvivenza della bambina. Quello che si capisce è che dietro c'era appunto un'organizzazione ben solida, se arrivava addirittura ad avere un book fotografico per mostrare le foto delle imbarcazioni. Sicuramente una organizzazione di livello più elevato, di superiore, e con molta disponibilità finanziaria di uomini e anche di mezzi. Un'organizzazione egiziana, quindi. Egiziana, totalmente. Ma pare che ci sia come referente di spalla qualche siriano, fa da ponte con i connazionali, con i siriani stessi. La storia di questa famiglia, della loro protesta contro i trafficanti e la collaborazione con gli inquirenti ha contribuito ulteriormente ad allontanare i siriani dalla rotta del canale di Sicilia verso quella balcanica via terra, come si confermava in un campo profughi di Sofia in Bulgaria, Hamed, ventenne di Aleppo. Ho scelto di provare a entrare in Europa da qui, via terra, perché non mi fido del mare, degli scafisti. Ci sono stati troppi naufragi, usano barche troppo vecchie e con troppa gente a bordo. Ho camminato da Aleppo fino alla Turchia, sono rimasto mesi in un campo turco anche per racimolare altri soldi per il viaggio. Poi il passaparola, e mi hanno messo in contatto con una persona che a sua volta ci ha parlato di un'altra che abbiamo visto solo il giorno concordato per provare ad attraversare il confine tra Turchia e Bulgaria. A quel punto avevamo già fatto il bonifico in un'agenzia specifica in Turchia e con quei codici riusciamo a dimostrare di aver pagato il passeur. Ci ho provato 5 volte, 4 sono stato respinto o abbiamo cambiato idea. L'ultima alla fine ce l'ho fatta e ora sono qua. Se avessi preso il mare, chissà se a quest'ora sarei ancora vivo. A prendere la via del mare dalla Libia sono dunque rimasti soprattutto i nigeriani, i gambiani, insomma i più poveri. Noi siamo riusciti un po' a frenare gli sbarchi tradizionali verso le nostre coste, in quanto avendo bloccato molti pescherecci provenienti soprattutto dall'Egitto, con a bordo per la maggior parte persone siriane, questo flusso si è dovuto necessariamente trasferire sulla terraferma, quindi la rotta balcanica. Però da noi abbiamo avuto continuamente sempre il flusso proveniente dalla costa libica, cioè dire tutti i soggetti per la maggior parte subsahariani e del Corno d'Africa. Diciamo che il flusso fondamentale non si è mai arrestato. Che vuol dire il fatto che ci sia stato questo cambiamento? Prima soprattutto pescherecci, ora più gommoni? Il peschereccio arriva solitamente dalla parte egiziana, mentre il barcone senza sovrastruttura arriva spesso dalla parte libica-tunisina, perché sono mezzi più approntati per gente che paga molto meno, mentre i pescherecci, essendo navi più stabili, più sicure, tra virgolette, anche se sono fatiscenti, provenienti dall'Egitto, in quanto i siriani, come è noto a tutti, hanno più disponibilità finanziaria, le imbarcazioni che sono rimaste a disposizione dei trafficanti sono molto fatiscenti e quindi non sicure per la navigazione, in quanto i siriani recentemente si sono ribellati. Cambiano le regole del soccorso, cambiano i flussi e di conseguenza si organizzano pure i trafficanti che dalla Turchia ora, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, fanno partire anche velieri verso le coste salentine per i più ricchi. O molti sono quelli che ormai organizzano viaggi pure in aereo, come hanno dimostrato alcune intercettazioni milanesi. Ma le inchieste di questi cacciatori di scafisti hanno ricostruito anche le reti di quanti, anche una volta arrivati in Italia, continuano a sequestrare soprattutto i bambini per farsi dare dai familiari altri soldi ancora come riscatto. Questo era successo alla dozzina di ragazzini trovati rinchiusi sottoterra in una tonnara siciliana. Storiacce. Chiama gli altri, parla. Tutti gli altri, chiama, parla. Chiamale, Sembravano fantasmi questi bambini trovati sottoterra in una vecchia tonnara vicino a Siracusa. I visi pallidi, gli occhi spaventati, i volti scavati dalla fame quando le torce della polizia li hanno trovati. Erano arrivati da soli in Italia, da soli avevano navigato su un barcone carico solo di minori non accompagnati, alcuni dei tantissimi che continuano ad arrivare sulle nostre coste. Perché, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, anche mentre l'attenzione mondiale era sulla rotta balcanica, in Sicilia e Calabria il mare ha continuato a portare carichi umani, centinaia e centinaia di persone stipate su barconi traballanti, organizzati ora da gruppi di eritrei, come l'ultimo scafista arrestato a Milano e responsabile di due drammatici naufragi, ora da libici invece, i più spregiudicati nel far partire carrette del mare dove i migranti stanno incollati uno all'altro come mosche sul miele, dice un investigatore, o come gli egiziani che avevano organizzato questo viaggio di soli bimbi, tenuti poi sequestrati in attesa di un ulteriore riscatto. Li ricorda ancora quei visi Aziz, l'interprete della procura di Siracusa, il primo a trovarli. Queste trafficanti professioniste cosa fanno? Soltanto fanno viaggiare i bambini, perché i bambini qua sotto 18 anni non possiamo rimandarli indietro. Questo barcone era arrivato a Siracusa. Un giorno il volante della polizia mi porta due bambini, trovandole che vicino a un bidone di spazzatura che cercavano poverine da mangiare. Chi paga i soldi lo vanno a accompagnare al treno, chi non paga ancora lì bastonato o violentato. Questi bambini erano stati poi catturati e bloccati sottoterra in una tonnara vicino Siracusa. Questi bambini sono venuti, sono stati nascosti lì e chiedendo, picchiandoli, e ogni volta che chiamano, fanno chiamare i loro genitori, stanno morendo di fame. Se ritardiamo soltanto un giorno, cominciamo a trovare i corpi morti, purtroppo. 1000 euro per un posto nella stiva di un vecchio peschereccio, il viaggio più pericoloso, di più per un posto ponte all'aria, il doppio almeno su barche con un cabinato. E ora, nel tariffario degli scafisti, è entrata anche la possibilità di comprarsi più spazio per un viaggio più sopportabile. Paghi di più, respiri di più o hai un po' più di spazio intorno a te. Anche questo offrono i trafficanti di uomini quando contrattano le partenze in modo sempre più dettagliato, tanto che sono nate in Turchia delle vere e proprie agenzie per gestire i viaggi dei migranti, in uno di quei paesi della costa dove l'economia sta beneficiando del business delle partenze. E lo racconta il cacciatore di scafisti d'Italia, Carlo Parini, commissario a Siracusa, dove da quasi due decenni dà la caccia ai trafficanti di uomini come nessun altro. Era una cassa comune di quella organizzazione su Milano, nella zona Clarini. I soldi che i profughi pagano per il loro viaggio poi venivano raccolti e poi mandati tutti quanti in cassa comune, immagino attraverso money transfer o robe simili, arrivavano a Milano, giusto? Era una cassa che accumulava per la maggior parte dei casi e consegnava direttamente, previo rilascio di un buono, a chi andava a ritirare 10.000, 20.000 euro. Con le ultime modalità differenti di sbarco, in qualche modo sono cambiate anche le organizzazioni economiche di questi gruppi? Che hanno creato addirittura, come abbiamo visto anche in Turchia, delle agenzie vere e proprie di riferimento, dove i migranti vanno a depositare la somma, gli viene rilasciato un PIN o un codice che devono riferire al momento dell'imbarco. Infatti in uno dei mercantili che abbiamo qui ad Augusta, addirittura in un lato c'è scritto checkpoint, proprio il check-in lettere dell'accesso. Cioè, in sostanza, uno dei mercantili che voi avete trovato degli ultimi sbarchi aveva al suo interno proprio l'area check-in. Cioè, dovevano tutti accedere da quel luogo, da quella parte. Un'organizzazione per riuscire a reperire un mercantile di quel genere, quasi 100 metri, presumo che abbia creato tutto un giro d'affari di corruzione fra tante persone. I più spregiudicati nel fare questo tipo di viaggi, chi sono? Sono sempre i libici che si sono resi responsabili di questo genere di imbarcazioni veramente fatiscenti, tant'è che una volta addirittura una sera su un barcone un rimorchiatore ha preso da una barca 1214 persone, erano, dice, come le mosche attaccate al miele, una cosa allucinante. Noi li vediamo nelle nostre città, ora si discute della distribuzione dei migranti nei vari centri, tra le paure più diffuse c'è anche quello delle malattie. Chiunque, anche chi non abbia mai assistito ad uno sbarco in Sicilia o Calabria, avrà visto nelle stazioni o in TV i visi di queste famiglie provate da viaggi e da stenti. Ma come si fa a non prendersi una qualsiasi malattia, o come la scabbia, che è diffusissima ma curabilissima, è bene dirlo, con questo genere di viaggi, viaggi ben diversi da quelli che invece sono sperimentati nell'ultima frontiera delle reti degli scafisti, i velieri per i più ricchi diretti in Salento, racconta ancora il commissario Parini. Anche i medici nostri accertano molti casi di scabbia, perché loro, rimanendo 2-3 mesi dentro questi capannoni prima della partenza. Molti raccontano anche di essere stati picchiati durante il viaggio, soprattutto capita ai migranti provenienti dal Centro Africa, vero? Chi dirige il barcone sono 2-3 persone al massimo. Se non mettono questa forma di sottomissione verso i migranti, rischiano di essere, diciamo così, buttati in mare a loro stessi. Questi ultimi sbarchi che cosa ci stanno raccontando sugli ultimi scafisti, quelli che arrivano in Italia? Ma i gommoni sono stati sempre un fatto, i conduttori spesso sono persone che magari non hanno i soldi per affrontare il viaggio e si prestano anche a fare una piccola scuola nautica di una settimana, diciamo così, di addestramento, e questo spesso sono i somali che si sono intraprendendo in questa storia. Mentre per quanto attiene i barconi, i pescherecci, abbiamo due generi, il barcone proveniente dalla fascia libica tunisina, più che altro un soggetto tunisino che magari fa il pescatore, mentre per quanto attiene il discorso egiziano abbiamo, diciamo, il comandante e qualcuno dell'equipaggio che sono magari diretti collaboratori dell'organizzazione, e poi un quarto sono i velieri che spesso dalla Turchia raggiungono le coste salentine, spesso ucraine, qualche volta qualche turco e anche qualche georgiano, da massimo 70 persone. Sulle barche, come dicevamo già prima, il costo del viaggio cambia anche in base ai centimetri di spazio che si comprano, racconta Aziz. Il gruppo malavitoso cosa fa? Raccoglie gente e mette le persone in magazzino. E dividono i siriani, se hanno soldi più assai, lo fanno viaggiare sopra. Addirittura l'ultimo viaggio abbiamo scoperto che si paga anche a metraggio. Puoi comprare 50 centimetri, puoi con 60 o un metro, in base a quanti soldi c'hai. È una cosa drammatica, terribile, che purtroppo succede. Siamo abituati a vedere barche con gente stipata ovunque, ma una volta tra le onde si sono ritrovati in Sicilia anche un ragazzo solo, che era l'unico sopravvissuto di quel viaggio, un ragazzo di Gaza. Sono le tante storie di sopravvivenza e di lotta che ogni giorno vede chi va incontro a questi carichi umani disperati, che si affidano a gente senza scrupoli, come queste reti di scafisti di cui abbiamo parlato, responsabili dei naufragi come quello del 3 ottobre di 2 anni fa a Lampedusa, che ha fatto cambiare tutto. Io ero lì, su quell'isola, e non dimenticherò mai quella distesa infinita, prima di corpi sul molo Favarolo, poi di bare nell'hangar gelido dell'aeroporto, corpi identificati solo con un numero, e davanti a tutti le bare dei bambini, bianche, con un numero anche loro. Tutto questo succede davanti ai nostri occhi, ed è per questo importante capire cosa c'è dietro a questi naufragi che si ripetono, missione di investigatori come questi che abbiamo sentito, Carlo Parini e Aziz Moody, divenuti i protagonisti di Mare Monstrum, saggio edito da UTET di Cristina Giudici. Ho preferito raccontare la storia dei migranti e dei profughi attraverso questi miti ignoti che sono i poliziotti, gli interpreti. Prima arrivavano, diciamo, in modo spontaneo, e dopo con Mare Nostrum, quando c'è stata la strage di Lampedusa 2 anni fa, praticamente si pattugliavano le acque internazionali e quindi si salvavano le persone che si incontravano nel canale di Sicilia. È aumentata l'offerta. Allora, nel momento in cui è diventato molto semplice, ci sono i salvatori che ti vengono a prendere, ovviamente impiegano meno mezzi e riescono a raccogliere, a fare più profitto. E le storie dei trafficanti senza scrupoli compaiono anche nel mito antico. Linea allora, come sempre a questo punto, alle mitiche storiacce di Giorgio Ioranò, professore all'Università di Trento e autore degli Eroi della Guerra di Troia per Sonzogno. Mitiche storiacce. Parlando di profughi all'Assemblea delle Nazioni Unite, Matteo Renzi ha citato Phobos, il dio greco del terrore. Alla fine il mito greco entra in gioco anche quando e dove uno meno se l'aspetta. E in effetti anche la mitologia conosce una storia di trafficanti di uomini. Sono i pirati che caricano sulla loro nave il dio Dioniso. La storia è raccontata da molti autori antichi, tra i quali il poeta latino Ovidio nel suo poema dedicato alle Metamorfosi. I pirati non sapevano di avere caricato un dio sulla loro nave e Dioniso, racconta Ovidio, chiede loro cosa vogliono fare di lui. Ditemi, marinai, com'è che mi ritrovo qui? Dove volete portarmi? Non avere paura, gli rispondono. Dici in che porto vuoi arrivare e sarai sbarcato dove vorrai. Non era vero. I pirati pensavano di avere tra le mani un ragazzo, magari ricco, di buona famiglia. Volevano rapirlo e chiedere un riscatto. Ma i pirati verranno puniti per questo loro crimine. Dioniso compie miracoli sulla nave, si trasforma in toro e in leone e poi trasforma i pirati stessi in delfini. Nel mito, insomma, i malvagi vengono puniti e quello che appariva un ragazzo indifeso, di cui i mercanti di uomini potevano fare ciò che volevano, si svela come una divinità terribile. Verrebbe da sognare che tra i disperati che viaggiano sui barconi oggi, un giorno si imbarchi un dio in incognito, una divinità mascherata che possa vendicare tutte le loro sofferenze. Ma purtroppo, appunto, questo è solo un mito. Siamo alla segnalazione. La segnalazione di questa settimana ci arriva da un altro posto carico di storia e di mito, Pestum, in Campania. Ci segnala Gaetano Fasolino come nella cinta muraria dell'antica città siano state costruite delle tensostrutture tra le proteste della popolazione e come, dopo la loro rimozione, sia rimasta ancora una piattaforma di cemento, scrive, anche se sia vietato costruire in quell'area così vicina all'area archeologica. Con una lettera al premier, i cittadini di Pestum chiedono la totale rimozione anche della piattaforma. Se avete anche voi storie da segnalarci, vicende che volete portare alla nostra attenzione, questo spazio, ricordate, è riservato a voi. Scriveteci allora una mail oppure mi trovate sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.